noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Abbiamo giocato tantissimo e per venire a capo della partita ci è mancato, penso, un pizzico di brillantezza fisica nei nostri due o tre giocatori determinanti che solitamente ci saltano l'uomo con buona facilità, e oggi non avevano la brillantezza giusta dal punto di vista fisico per farlo. Matuidi chiama il pallone, la palla va per Cuadrado che schiaccia in porta il pallone del 2-1, sorpasso Juventus. Vince tutte le partite 3-0 e non è mai semplice, soprattutto queste. C'erano troppi numeri che davano contro il Benevento e oggi doveva diventare, e è stata così, una partita difficile e complicata, perché poi ci sono delle cose nel calcio che succedono, che è l'imponderabile come quello di oggi. Perisic la mette giù, De Silvestri su di lui, Perisic palla col mancino morbido verso Icardi e poi il piazzato di Eder per l'1-1, il pareggio dell'Inter con Eder. Hanno fatto la loro partita in maniera corretta, hanno tentato di giocarla per vincerla sempre, è venuto fuori una partita vincente. Noi abbiamo sbagliato qualche cosa di più di quello che sbagliamo sempre, per cui siamo stati costretti, insomma, a questo pareggio. Tira direttamente in mezzo, Dzeko, deviazione! Ha segnato Manolas! Ha segnato Manolas! Avevo paura di questa trasferta perché arrivavamo da una grandissima vittoria contro il Chelsea e pensavo una squadra un pochino appagata. Invece ho avuto ugualmente delle risposte importanti, nonostante siamo andati un po' in intermittenza, in particolar modo nel primo tempo. Le prime della classe che fanno fatica, che stentano, che pareggiano o vincono all'ultimo respiro, a parte la Roma di cui poi parliamo, che è la vincitrice di tappa. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Io al solito, più che mai a lunedì, vi convoco tutti all'800240024. La Lazio non ha giocato perché Giove Pluvio non ha voluto, perché basta un temporale su Roma per bloccare la vita della capitale, ma questa è un'altra storia che riguarda noi molto relativamente. Luigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, molto bene. Lunedì di pioggia, ma ci divertiamo ugualmente. Anche perché c'è Crosetti, che è un Prozac naturale. Grazie, così spero anche di lei. Allora, ragazzi, il tema, come direbbe il mio amico Pardo, dillo. Ah, il dato politico della giornata. Dato politico della giornata. Che vai. Inter e Napoli hanno frenato, che la Juve, non brillando, ha recuperato due punti, che la Roma è tornata in corsa e che la Lazio si è riposata. E che il Milan, insomma, diciamo, il funerale, uso l'espressione che ha usato lui, anche se un po' funere, appunto, è almeno per il momento rinviato e potrà adesso lavorare probabilmente con più serenità nei prossimi 15 giorni. Qualcosa? No, nulla, aggiungo che tristezza al capitolo Milan, ma comunque lasciamo perdere. Maurizio Crosetti commenta il dato politico di Pardo, sono d'accordo, poi ne aggiungo un'altra considerazione. Sì, sì, è tutto così, con l'aggiunta che per la prima volta dalla prima giornata si è visto un po' di equilibrio anche in zone dell'universo in cui pareva non potesse esistere questo equilibrio, e in definitiva a Verona, e in definitiva un po' a San Siro, e anche un po' a Torino, dove la Juve ogni tanto sparisce come fanno quei bambini che si mettono le mani davanti alla faccia e decidono di essere diventati invisibili, no? Dove sono? E poi riappaiono, perché ci sono bambini più piccoli di loro e gli altri perdono. Però insomma è strana questa intermittenza bianconera, un po' strana. Sì, un po' strana. Allora, più tardi avremo ospite, dopo la borsa, così ci hanno promesso gli amici del Chievo, il portiere che si è trovato di fronte a una delle squadre più belle d'Europa, cioè Napoli, cioè Stefano Sorrentino, che ha difeso ieri benissimo, peraltro, la porta del Chievo. Io aggiungo, ragazzi, questo. Ho visto delle squadre molto stanche, ma è normale in questo momento dell'anno. C'era Icardi, e Pardo l'ha commentato a San Siro, che sì, grosso modo si trascinava e non andrà con la nazionale argentina, problemi fisici da risolvere, anche lui che è bello, bravo e forte. Ho visto Mertens veramente con la spia della riserva accesa, e poi qui possiamo dire Sarri turnover, forse si poteva provare a vincere a Verona anche con quelli che stavano seduti in panchina. La Juventus, l'ha detto Maurizio Crosetti, ormai ha Higuain a ogni allaggiata di scarpe, ma questo è abbastanza normale. Non è normale l'andamento di questa partita. Insomma, sono squadre che hanno bisogno di un tagliando dal punto di vista fisico. E Sarri, nella sua analisi, è stato molto chiaro e molto pertinente e molto preciso, Pierluigi. Sì, devo dire che mi sembra tutto abbastanza chiaro. Cioè, ieri Sarri è stato onesto nel post partita, ha parlato di una squadra che ha perso un po' di brillantezza, che è un po' stanca, alla quale ieri avrebbe fatto molto comodo una giocata individuale, che non è arrivata. E anche se vuoi, questo è abbastanza significativo, perché il Napoli, che è la squadra che gioca più di squadra e che quindi tra virgolette ha abituato i propri tifosi a poter prescindere anche dalla giocata individuale, dal colpo di genio del singolo, e invece ieri ne ha bisogno. Merito anche del Chievo, perché Chievo è una squadra organizzata, però io ieri eravamo insieme lì a tutti i convocati weekend. Devo dirti la verità, io penso che questi siano tutti buttati, ma non perché non si possa pareggiare col Chievo, per carità, ma perché per come è strutturata la Serie A di oggi, con questa distanza enorme tra le grandi e le altre, anche un pareggio fuori casa con una squadra di metà classifica ben organizzata come il Chievo, sono due punti persi. Come sono due punti persi quelli dell'Inter col Torino, anche se lì io, sai come la penso, che l'Inter abbia vinto tante partite di sofferenza con dei gol nel finale, quindi credo che alla fine prima o poi doveva capitare una partita un po' meno brillante, indovinata, no? Certo. Risultato, la quale alla fine prendi una traversa con Vecino e rimani con un punto soltanto. Sì, ecco, io dissento leggermente dal mio compagno di banco Maurizio, perché secondo me il punto del Napoli a Verona era il massimo possibile in questo momento, proprio per la ragione di qui sopra, proprio perché ci sono giocatori fondamentali che non stanno bene. Lo stesso vale per l'Inter, che si trova di fronte a un avversario estremamente serio, che ieri ha giocato una eccellente partita. Sulla Juve hai già detto tu, per chi ha giocato il vantaggio del Benevento al termine del primo tempo, oggi festeggia qua sotto al bar. Però non trovo punti persi in questa giornata. Ovviamente la Roma merita un capitolo a parte, poi lo sviluppiamo. Beh, insomma, il Napoli oggettivamente i punti li ha persi, anche se, come dici tu, probabilmente non poteva fare molto di più dopo quella tremenda, inesausta corsa a cui l'ha costretto il Manchester City. Però questo ci racconta anche che probabilmente negli snodi più difficili della Champions, e auguriamo al Napoli di averne ancora tanti, perché potrebbe averne soltanto, Dio non voglia, soltanto San Gennaro non voglia, soltanto più due, ma speriamo di no. Questo ci dice che in momenti del genere Sarri non ha quello che ha Allegri, che ha di fatto quasi due Juventus, non uguali ma quasi sovrapponibili. Anzi, la Juventus del mercato estivo non ha neanche un titolare per adesso in squadra, e si può dire che non si sia ancora vista, ma vedrete che invece saranno questi giocatori nuovi una risorsa importante dall'inverno e dalla primavera in poi, quando poi la Juve di solito prende il suo passo. Sì, però che fatica ieri a battere quelli, Mau, però che fatica ieri battere quelli a quota zero, Che fatica, sì, perché comunque, ripeto, la Juve quando non gioca in velocità, quando si assenta dalle partite, eppure riesce a vincerle, deve essere doppiamente contenta, perché una Juve che finora ha giocato con un grande Dybala all'inizio e poi però Dybala scomparso, è uno scomparso Higuain all'inizio e poi Higuain riapparso, e non ha pagato troppo dazio finora, perché è a un punto dal Napoli, e non è la Juve che era scivolata ovviamente a meno 12, quanti erano, però è una Juve che limita i danni, parte sempre così, poi prende il suo passo e se ne va. Io penso che vincerà lo scudetto anche quest'anno, guarda cosa ti dico a novembre. Però. Allora, 800-24-00-24, traffico, torniamo subito e sviluppiamo altri due temi. Uno è il Milan e l'altro è la Roma. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. vi presenta Tutti convocati. Voglio oggi, almeno oggi, evidenziare le cose positive. Anche oggi la squadra in fase difensiva ha concesso poco, un po' di partite che concede pochissimo, ha trovato la sua quadratura. Oggi siamo stati anche bravi in fase offensiva, perché ripeto, abbiamo tirato 10 volte in porta, e quindi oggi sono contento del risultato e in parte anche della prestazione. Forse proprio non giocare quella partita mi ha fatto riflettere, mi ha fatto migliorare sia a livello fisico che a livello di testa, e credo soprattutto che queste due giornate che ho ricevuto di squalifica abbiano compattato ancora di più il gruppo, come se la mia presenza forse all'inizio era stata un po' tra virgolette di peso, poi piano piano ci siamo ma questo l'hai avvertito tu, Leo, nello spogliatoio un po'? Cioè che questo tuo arrivo così prorompente insomma abbia rotto magari anche degli equilibri? Ma dovevo spostarli io gli equilibri, ma non mi è riuscito ancora. Montella e Bonucci dopo lo 0-2 del Milan a Sassuolo, per inciso Sassuolo nemmeno lontano parente di quello a cui eravamo abituati nelle ultime stagioni con Di Francesco, che sta facendo benissimo la Roma. Abbiamo sentito Montella, abbiamo sentito Bonucci, che non so se avete sentito integralmente, loro signori Pardo e Crosetti, ha detto delle cose anche, mettiamola così, intimistiche, quella faccia di capitano mi peso, pressioni addosso, eccetera eccetera. Morale, il Milan abbastanza una tristezza come la notte di Reggio Emilia, non una buona partita, due punti che allungano la vita a Montella e niente altro, Pierluigi, come dicevi tu. Sì, sì, beh, insomma, sono tre punti importanti, perché poi un po' come quelli che erano arrivati contro il Chievo, nel momento in cui il Milan sembra arrivato ai titoli di coda, il Milan di Montella sembra arrivato ai titoli di coda, invece c'è una reazione, il che vuol dire innanzitutto che banalmente la squadra ha ancora fiducia nell'allenatore, nel senso che riesce. Premesso che io non credo, lo abbiamo fatto mille volte questo discorso, negli ammutinamenti nei complotti contro gli allenatori, assolutamente. Però sappiamo che in un gioco come quello del calcio professionistico di alto livello contano le eccellenze, i piccoli dettagli. Quindi se non c'è più una fiducia al 100% nei confronti degli allenatori, questa cosa poi in campo rischia di vedersi. E il fatto quindi che il Milan abbia reagito due volte nel momento più difficile con due vittorie pesanti fuori casa è importante. Poi secondo me i problemi del Milan dal punto di vista del gioco non sono risolti. Io credo, diciamo l'altro giorno fa con Condò, e lo ribadisco oggi, che il Milan migliorerà, cioè il Milan sicuramente farà un passo avanti in classifica da adesso in poi, e probabilmente non basterà per arrivare a una delle prime quattro posizioni della classifica. Questo non ci sono molti dubbi, più che altro perché quelle lì corrono tantissimo, no, quindi chiaro, correndo tantissimo chiaro, diventa complicato. E Conte è un'ipotesi ovviamente suggestiva, credo che un fondo di verità ci sia, quantomeno a livello di sondaggio, a livello di interesse, non potrebbe essere altrimenti, visto che è uno dei migliori allenatori che ci sono in giro in Europa e che ha nostalgia dell'Italia indiscutibilmente, e quindi come non pensarci, cioè sarebbe grave se non ci si pensasse. No, detto questo, Montella ha ancora il destino delle sue mani, e quindi sì, no, perché lui, per il momento poi balla una valanga di soldi per quanto riguarda Conte, perché insomma una ventina di milioni di euro da una parte o dall'altra, se lo cacciano, se si risolve il contratto, ma che volete, questi sono dettagli, signori miei. Maurizio, Milan e aggiungo prima di salutarti Roma, facevo riferimento a Di Francesco, si sente la sua mancanza e si vede la sua mancanza al Sassuolo. Poi aggiungo l'onda lunga della Champions League. È chiaro che il Napoli ha pagato la fatica, ma anche la sconfitta contro il Manchester City, partita enormemente dispendiosa. Se esci da quel tritacarne lì con un pugno di mosche in mano, lo paghi anche emotivamente la domenica successiva. La Roma invece ha monetizzato una grande partita contro il Chelsea, che peraltro ieri ha battuto lo United nel campionato inglese, per quel che può contare. Ma conta. Sì, è tutto un giro, no? È tutto una specie partita di giro tondo, sì, che porta quindi la Juventus, la Roma, il Napoli, l'Inter, la Fiorentina e tutti quanti a vivere di istanti che durano niente, perché poi alla fine basta poco per rovesciare tutto. Tra l'altro, adesso che abbiamo cominciato a vedere una fisionomia diversa, c'è la sosta, no? Quindi diciamo dopo Ikea Italia avremo Napoli Milan, a proposito di accanimento terapeutico. Chi paga il conto all'Ikea? Perché praticamente c'è Ventura con la brugola del 12 che cerca di montare una squadra, però una specie di nazionale Billy, però pare che abbia il foglietto delle istruzioni girato al contrario, tant'è che ha preso Giorginio, che non l'aveva mai visto, ha riavvitato Zaza e poi gli crescono tre bulloni, quindi comunque diciamo che una condizione normale per tutti noi. Sì, esatto, cioè praticamente succederà quello che è capitato a me tanti anni fa: ho montato la libreria Billy e ho piantato il fondo al contrario, quindi ancora adesso si vedono i segni dei chiodi praticamente. Ventura farà la stessa cosa. No, senti, per chiudere, come vedi la Roma? Perché tu mi hai detto, ma sei stato molto chiaro, la Juventus vince il campionato, bene. Sì. La Roma come, dove la mettiamo? La Roma potrebbe anche arrivare in Champions, perché comunque è una squadra che ha imparato tutto prestissimo, e non era facile imparare certi movimenti di Francesco. È una squadra che sembrava avesse per segnare soltanto Dzeko, e invece così non è. Gerson è un altro, è un giocatore in più, è un titolare aggiunto di fatto da ieri, no? Non solo per la doppietta. Mi pare una squadra che abbia Satana dentro, soprattutto nel recupero di palla a centrocampo. E quando giochi con Satana dentro, alla fine di partita le vinci parecchio. Sì, come ha fatto ieri. Maurizio, grazie. Ti abbraccio. Grazie a voi, ciao. Ci teniamo il tuo pronostico registrato. Keep in touch, caro Crosetti. Pierluigi, hai voglia di parlare con gli ascoltatori? Vuoi prima aggiungere qualcosa su queste considerazioni che riguardano il Milan? Beh, Bonucci, che ne pensi di Bonucci? Che ieri appunto è uscito con queste dichiarazioni, ho avuto modo in queste due giornate di squalifica di ripensare a me stesso, di farmi un esame di coscienza, eccetera, eccetera, eccetera. Io continuo a pensare che i problemi del Milan siano tutt'altro che risolti dallo 0-2 di Sassuolo Brodino della domenica sera. Alla ripresa del campionato il Milan ovviamente fa un giro a Napoli, che non è esattamente il posto migliore dove andare calcisticamente. Guarda, allora su Bonucci dico che ci mette la faccia sempre, e questo è un dato oggettivo, non è un dato così, non è campato in aria, non sono chiacchiere. Bonucci ci mette sempre la faccia, per me questo è un valore, l'ho detto nei momenti difficili, l'ha messo anche ieri, e a quella battuta lì sul fatto che doveva essere lui a spostare gli equilibri fa abbastanza ridere, ed è la dimostrazione del fatto che lui il primo a essere consapevole del suo ruolo, che è un ruolo che in parte gli è stato assegnato, in parte lui si è preso perché è nella sua natura, ed è comunque il ruolo dei giocatori leader. Per cui secondo me è un segno positivo, ed è così un modo di essere di un giocatore molto importante. Poi è ovvio che nei momenti in cui le cose non vanno bene, ce ne sono stati e forse ce ne saranno ancora, ci saranno gli sfottò e tutto il resto, però secondo me è da apprezzare questo fatto. E sulla Roma insomma ne parlo da un po', perché da un po' mi sembra che sia esaurita la fase diciamo dell'apprendimento, dell'assimilazione delle idee di Francesco, le cose si stiano sistemando, mi sembra la squadra del momento, assieme alla Lazio, mi sembra la squadra del momento, prima anche la controprova della Lazio di ieri. Mi sembra sia in una crescita totale. È ovvio che la proprietà transitiva non vale, non possiamo dire che la Roma avrebbe vinto 4-0 con lo United, però la partita di ieri del Chelsea dimostra che questo Chelsea non è quello di due settimane fa. Certo. Non è la squadra in crisi che ci poteva essere stata a Stamford Bridge, è un Chelsea che nel frattempo è cresciuto e la Roma l'altro giorno l'ha battuta alla grande, quindi mi sembra. E poi ecco, questa è una squadra che ha ancora tanto potenziale inespresso, e il nome di Schick è il primo che mi viene in mente, Karsdorp non lo vedremo, però insomma con quello che ha di Francesco già adesso sta facendo cose molto buone. Gaetano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo uscire un po' dai binari, volevo parlare un po' con Pardo, anzi è Pardo che mi deve dare una risposta. Ah, sì, volentieri. Dato che io sono un vecchio ultra del Cosenza, trapiantato a Bergamo per lavoro, e assistendo alla trasmissione di venerdì sera di Quarto Grado, quella con il Nuzzi, che si parlava dell'omicidio di Donato Bergamini, io ne parlo con una certa, diciamo, anche, come si dice, emozione. Cioè mi è dato un po' fastidio che il Pardo, che io stimo come giornalista e opinionista, che è andato in trasmissione a presentare un libro e che il Nuzzi gli ha dato l'occasione di presentare il suo libro in un'occasione che si parlava di un omicidio di un calciatore, non di calcio. Mi dispiace per Pardo, ma doveva rifiutarla questa opportunità. È del Nuzzi che non gliela doveva proprio dare questa opportunità, perché, ribadisco, si parlava di un omicidio di un giocatore, sì, del Cosenza, ma è sempre un omicidio. Grazie. Sì, ma guardi, no, mi ascolti, guardi, la TV funziona così, funziona che nel periodo in cui ci sono noi attività che abbiamo spesso film, libri e cose, si fa un accenno al libro nell'ambito di una trasmissione nella quale si parla di una serie di temi. Io ho accettato di andare a parlare di Bergamini proprio perché, se lei ha visto l'intervento, certamente l'ha visto, ci tenevo a sottolineare che la vicenda di Bergamini è... Il fatto che sia stato riaperto il caso è una grande vittoria della comunità degli appassionati dello sport, penso di averlo detto con grande chiarezza. In particolar modo ho fatto riferimento alla gente di Cosenza che con il Bergamini Day e con tutta una serie di altre attività che ci sono state in questi anni ha tenuto alta agli occhi dell'opinione pubblica l'attenzione su questa vicenda terribile. Poi sì, ha fatto vedere per 30 secondi il mio libro e mi ha chiesto una cosa del mio libro, francamente non mi sembra una cosa di cui... guardi, a quarto grado si parla solo di quelle vicende lì, quindi chiunque va a quarto grado inevitabilmente a presentare o si trova a dover presentare un libro si trova un minuto prima o un minuto dopo delle storie drammatiche, quindi non è quello. Io ho accettato l'invito per andare a parlare di Bergamini e lo rifarei mille volte e penso di aver detto questa cosa e la ribadisco anche adesso in radio, che questa vicenda qui è stata riaperta grazie soprattutto al contributo della comunità degli appassionati di calcio, prima di tutto quelli di Cosenza ma anche quelli di altre tifoserie, e anche attraverso l'attenzione di una serie di gruppi anche ultra, che, dei quali spesso si parla in maniera negativa per delle cose negative che succedono, ma quando fanno delle cose positive devono invece ricevere il giusto applauso, perché quella vicenda lì sembrava finita completamente, era stata derubricata, era stata archiviata dalla magistratura e invece è stata riaperta, quindi questa attenzione mediatica c'è stata e mi pare che l'altra sera l'abbiamo trattata nella maniera più giusta e per quel poco che conta ho ricevuto anche un tweet di ringraziamento da parte di un'associazione che vuole verità per Bergamini. Poi sì, hanno fatto vedere il libro ma hanno detto di parlarne, ne ho parlato morale, chiuderei qui il discorso Pardo con il suo permesso, insomma sì, mi sembra, le spiegazioni sono molto chiare, non servono ulteriori repliche. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere un vostro parere su una cosa. Io sono tifoso della Juventus. Questo accanimento che c'è anche quest'anno su Allegri, sulla Juve, ma voglio dire, la stessa di due anni fa. Due anni fa però eravamo tredicesimi ed oggi siamo secondi. Lo trovo quasi una cosa infondata. Cosa ne pensate? Anch'io non avrei altro da aggiungere, infondato certamente. Però ti posso dire, adesso io non sono Piepoli o Mannheimer, non è che non faccio sondaggi, in queste ore abbiamo visto i sondaggisti impegnatissimi tutti. Sinceramente a me sembra che anche da parte di una parte dei tifosi della Juve ci sia un po' di scetticismo. Se vogliamo, visto che abbiamo sdoganato l'espressione del dato politico, il dato politico di questa giornata è che la Juve ha recuperato due punti a Napoli e Inter, quindi se la vogliamo vedere così. Certamente dalla Juve in casa contro il Benevento ti aspetti di più, però in qualche modo l'ha portata a casa. Io certo. Non credo, l'ho detto mille volte, lo ribadisco adesso, che la Juve abbia particolari problemi. Io credo che la Juve sia in una fase ancora abbastanza embrionale, certamente non sta brillando per qualità del gioco. Lisbona e Benevento non sono state sicuramente due partite particolarmente ispirate, però mi sembra che sia lì, sta facendo turnover, sta ruotando gli uomini. Quindi scusa Pier, allora vuoi vedere che ha ragione Crosetti, se in una fase embrionale, se in una fase di crescita, se in una fase di sviluppo, guardi le classifiche di campionato e Champions League, dove andiamo, cioè dove vogliamo arrivare, nel momento in cui esce dal bozzolo e diventa farfalla, ciao a tutti. Allora può avere ragione Crosetti. È chiaro che questa Juve qui, se rimane questa a febbraio-marzo, non decolla. Però la sensazione è che sia in una condizione nella quale dove tutto può ancora decollare, perché è in una posizione di classifica in campionato buona, è in una posizione del girone di Champions League direi ottima per certo, la qualificazione, certo. È chiaro che deve fare un passo di qualità, cioè è ovvio che se la Juve che abbiamo visto ieri col Benevento va a giocare un quarto di finale di Champions League, faccio per dirti, col Bayern, rischia di è ovvio, ma il quarto di finale col Bayern può essere a marzo, vediamo che succede. Borsa, torniamo. Ma mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20, mi manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ciao mister, dopo Macedonia-Albania, ricordiamoci le critiche, ricordiamoci una prestazione non bellissima contro la Macedonia, i problemi che ci sono stati, le riunioni dei giocatori, insomma, da quelle due gare lì, che cosa hai capito, dove può migliorare questa nazionale e che cosa, magari devi cambiare anche tu, devono cambiare i giocatori? Grazie. Ma in realtà, aspettare queste due partite poi... si può fare una riflessione a 360 gradi. Dico solo che prima della partita con la Spagna eravamo reduci da un'infinità di vittorie consecutive, no? Facendo anche buone partite, perché se no non fai tre gol all'Uruguay, non vai a vincere in Olanda, eccetera. Dopo la partita con la Spagna è successo, per come è maturata, per come abbiamo giocato, ma soprattutto per come abbiamo perso. Sono state critiche che, ripeto, ho detto che andavano accettate, soprattutto quelle costruttive, che probabilmente hanno tolto anche qualche piccola certezza che stava crescendo in maniera enorme sino a quella partita. È bello, è come essere a scuola, vedere quelli che si tirano lo schiaffino. E quindi dicevo, ci può stare che ci possono essere, però poi abbiamo, non tanto sul campo, perché poi abbiamo vinto con Israele e Albania, abbiamo pareggiato con la Macedonia, credo che fossero figli soprattutto di quel momento dopo la sconfitta contro la Spagna, però sono tutte cose che ormai sono alle spalle. Oggi c'è la voglia di fare queste due partite, c'è la voglia di andare ai mondiali, noi andremo ai mondiali, perché nessuno di noi ha mai preso in considerazione il fatto di non andare ai mondiali, quindi allora, c'è la grande... Io per ragioni di cronaca vi faccio sentire al volo dichiarazioni di Ventura mentre sto ripensando, sorridendo alla definizione di prima di Crosetti, Italia Ikea con la brugola del 12. Vabbè, Pierluigi Pardo. Sì. Io lavoro per te perché ti voglio bene. Allora, ti ho trovato un futuro grande talent per futuro, attualmente ancora un eccellente portiere, però io lo vedrei benissimo a fare le telecronache con te, Stefano Sorrentino, sai? Beh, sì, benvenuto, come stai? Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti voi. Lavoro per tutti e due, poi mi dai la mezza, Sorrentino. va bene, però tra un po' d'anni devi aspettare ancora qualche anno. Sì, ancora ottima salute da calciatore. Però ti andrebbe, no? Sì, è un lavoro stimolante. Sicuramente non farò l'allenatore, quindi togliendo già l'allenatore ci sono poi altri pochi lavori importanti che appartengono al mondo del calcio, e questo che tu hai appena detto è uno di quelli. Vabbè, io non decido niente. No, ma Radio 24 lo aspettiamo. Sorrentino è uno di quelli che, diciamo, ha gli strumenti culturali e dialettici per poterlo fare. Sono in tanti ormai, i calciatori di oggi da questo punto di vista sono sempre più preparati, in realtà Sorrentino è certamente fra questi. Allora, che Napoli hai visto? E poi ti chiederò invece che Milan hai visto una quindicina di giorni fa. E no, poi io, un'altra curiosità, come si sta nella porta quando davanti ti trovi una delle squadre che tutti dicono più belle del mondo, dell'universo, eccetera, eccetera? E la blocchi? E la blocchi? Fermi. Allora oggi molto molto bene, perché comunque sapevamo di incontrare una squadra fortissima, una squadra con tanti campioni, una squadra con la media di 3,2 gol a partita, e noi ieri per fortuna siamo riusciti a fermarli facendo un punto importante e soprattutto non prendendo gol, che per un portiere è sempre un qualcosina in più, no? Ho visto un Napoli che è partito molto molto bene, però a questo bisogna anche dire che il Chievo ieri ha giocato la partita perfetta. L'avevamo preparata tutta la settimana, il mister è stato molto puntiglioso tutta la settimana preparandola in un certo modo, quindi tutti quanti dietro la linea della palla, cercando di non farli fraseggiare come loro sanno fare, per cercare poi dopo di colpirli nelle ripartenze. le ripartenze non ci sono state, non ce ne sono state tantissime, però ecco, nella parte difensiva siamo stati perfetti, concedendo poco o niente alla, al Napoli. Sarri ha parlato così, il signor Sarri ha parlato un po' di catenaccio del Chievo, però vabbè, che vuoi fare? Vabbè, eh? Ci sta, ci sta. Vabbè, è normale, noi non per arrivare al nostro scudetto che della salvezza dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione, quindi ben venga il bene buon catenaccio. Assolutamente. Sì, ma nemmeno se mi posso permettere, nemmeno per quello che ho visto io, che ho visto diretta premio, un po' rivisto gli highlights, nemmeno un catenaccio poi selvaggio, poi così, no? Clamoroso, così selvaggio, cioè comunque un'impostazione prudente della partita, come era ovvio e legittimo che fosse, ma insomma senza neanche esagerare. Del resto, guarda, Capuano ha appena twittato i punti lasciati al di fuori degli scontri diretti, e sono 4 per l'Inter, 2 per Napoli, Juve e Lazio, 0 per la Roma. E questo insomma ci fa capire quanto un impaccio come quello di ieri, due punti persi come quelli di ieri dall'Inter e dal Napoli, pesino, proprio perché è raro in questo campionato che le medio piccole, pure quelle molto organizzate come il Chievo, riescano a ottenere questo risultato. Invece ti chiederei una cosa sul Milan, poi celebriamo anche il Chievo, perché se lo merita ogni anno, non è un miracolo, è una sana abitudine. Il Milan l'avete visto un po' di giorni fa. Che idea te l'hai fatto? Perché insomma la vittoria di ieri in qualche modo è in linea con quella ottenuta proprio a Verona. Sì, è chiaro che per noi era una partita un po' particolare, ecco, dopo 3 giorni dalla vittoria del derby, venivamo da un filotto di 7 risultati tutti consecutivi, quindi eravamo un po' scarichi. Diciamo che fino al primo gol loro, che sono al 35esimo, siamo stati in partita, anzi abbiamo avuto anche 2 occasioni da gol per passare in vantaggio. Poi nel momento in cui abbiamo preso il primo gol, siamo andati un po' in confusione, dopo pochi minuti abbiamo preso l'autorete, poi abbiamo preso il secondo gol, siamo andati a fine primo tempo sotto i 2 gol, e poi dopo loro hanno preso il pallino del gioco in mano e per noi è diventato buio totale, ecco. Ho visto una squadra con tanta qualità, una squadra che prova sempre a giocare la palla, cerca di non buttarla via, ha dei giocatori importanti, però è chiaro che ce ne sono tanti nuovi al primo anno d'Italia, alcuni, e quindi hanno bisogno di tempo per far sì che i grandi giocatori riescano a fare gruppo in campo, ecco. Quindi ho visto una squadra che ha del potenziale. Risultati in questo momento sta facendo un po' di alti e bassi, però ecco, purtroppo per noi l'abbiamo beccata nella giornata sbagliata, no? Allora, qual è il segreto? Allora propongo mozione d'ordine, cioè. Ci teniamo ancora un attimo Stefano Sorrentino per parlare anche del Chievo, naturalmente, non solo degli avversari, e traffico, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati, ma proprio tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Allora, con noi Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, naturalmente, oltre a Pierluigi Pardo, al solito. E dicevamo, Pardo, volevamo parlare un attimo del Chievo anche, no? Sì, perché poi si finisce che si parlano delle altre, ma insomma in realtà qua ci sono dei meriti che mi sembrano storici, che continuano di anno in anno, che vanno avanti nonostante insomma un monte ingaggi non clamoroso. Tu che idea ti, ormai insomma conosci l'ambiente benissimo, che idea ti sei fatto? Qual è il segreto, se c'è un segreto? Guarda, il segreto del Chievo è che ha la fortuna di avere un presidente che non fa il passo più lungo della gamba, che per fortuna mia e di tanti miei compagni di squadra va sul lato sicuro, perché siamo una squadra anche un po' datata, e in mezzo a noi poi ci sono tanti giovani interessanti, pronti per fare il salto, ecco. Ieri, per dirvi, ha giocato titolare facendo una grandissima partita, secondo me anche uno, se non il migliore in campo, il migliore in campi De Paoli, che abbiamo fatto 97 mi pare, e quindi giocando al primo minuto, quindi la società è una società sana, piccola, che nel passare degli anni si sta sempre di più rendendo conto che con i piccoli passi si possono ottenere dei grandi risultati, ecco. Soprattutto in una Serie A come questa, che è terribilmente spaccata, Stefano. Senti, per chiudere, non per fare giornalista carogna, quale sono per la verità, però ti devo fare commentare un altro audio del tuo avversario di ieri, cioè Sarri. È chiaro che non dovrebbe essere concesso 5 ingressi del medico per 5 mediazioni in campo di 3 minuti l'una, però questo per quanto riguarda il Chievo fa parte della partita che dovevano fare loro per strappare un punto, quindi alla fine siamo abituati a dover affrontare situazioni di questo tipo. Se oggi non ce l'abbiamo fatta a venirne fuori, penso che qualcosina a livello fisico ci sia mancato, soprattutto te l'ho detto, in brillantezza più che in quantità di corsa. Allora Stefano, questo fa parte del gioco, no? Questo è chiaro, questo è evidente, e poi magari succede che, come sai meglio di me come il calcio, al 93esimo il Chievo segna il gol e Napoli perde. Vabbè, però c'è un regolamento, ecco, ci sono minuti ogni volta che entra il massaggiatore o la barella in campo, e poi sta all'arbitro dare il recupero giusto. Ieri siamo tempo dato 5 minuti di recupero, quindi non mi sembra che ci sono state queste c'è stato queste tantissime interruzioni, fa parte del gioco. Abbiamo giocato una partita sotto l'acqua, quindi gli interventi un po' più duri, quindi tutto quanto fa parte del gioco, ecco, credo che sia nella normalità, no? È un po' come quando vinci e la catapalla ritardano ritardi la palla, è sempre fatto, ma questo è anche secondo me la bellezza del calcio, ma sì, 60 gradi, voglio dire, quindi secondo me nella partita di ieri bisogna evidenziare che una squadra come il Chievo, lottando con i denti dal primo al 95esimo, è riuscito a portare via un punto importante alla prima della classe. Ti uso già da opinionista per la futura carriera come agente Carlo Genta. Mi fai un podio dei portieri della Serie A? Caratteristiche tecniche? Buffon, e poi ci siamo tutti noi altri portieri. Grande. E quindi lui fa un campionato a parte, perché è monumentale. Poi dopo mi piace molto Perin del Genoa, che nonostante abbia avuto due infortuni importanti in poco tempo, si sta riprendendo. Lui personalmente si sta riprendendo, la squadra in questo momento ha qualche problemino in più, e colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo al mister Ballardini, per se dovesse essere lui, almeno sembrerebbe quel nuovo incarico. E poi dopo sono molto contento anche che dopo un altro brutto infortunio sia rientrato il mio amico Viviano, che secondo me nel campionato italiano è uno di quei portieri che tutte le squadre vorrebbero avere. I portieri italiani, in pratica, la scuola italiana. Grazie Stefano, anche bravissimo. Anche se mi sta stupendo molto in positivo Allison della Roma, perché è un nome straniero. C'era qualche dubbio all'inizio su Allison? Sì, all'inizio su tutti quanti, per chi non lo conosceva, poi dopo sono andato un po' come Roma, dopo che comunque Szczęsny aveva fatto molto bene, ero un po' dubbiosi, e lui con il lavoro ha risposto sul campo, non lo conosco, però mi sembra un bravo ragazzo, una cosa simpatica, e quindi è giusto fargli i complimenti. Grande, grazie Stefano Sorrentino. Ciao, grazie, ciao, grazie. Bravo, bravo, devo dire che su Allison, fammi aggiungere una cosa, rientra in quella sorta di sottovalutazione ambientale che c'è stata in estate della Roma. Vero, che in parte secondo me è dovuta, ne parlava Telese la settimana scorsa, attività che è dovuta anche a una sorta di autolesionismo da parte di alcuni, ovviamente soltanto alcuni tifosi della Roma, non tutti. Perché c'era un po' di scetticismo, perché in effetti onestamente era strano che una squadra che aveva chiuso al secondo posto, quindi con la certezza di avere accesso al budget della Champions League, dovesse vendere giocatori così importanti. Chiaro, però tu non lo sai prima, quindi era anche uno scetticismo in qualche modo giustificato entro certi limiti, perché Alisson lo stai scoprendo adesso, no? Perché molti giocatori lo stai scoprendo adesso, perché Di Francesco a questo livello lo stai scoprendo ora. Andrà da Vicenza in un minuto. Sì, buongiorno, grazie per la comunicazione. A lei, dica. Niente, volevo dire velocemente due cose riguardo al Milan. Io sono milanista, che sul fatto di Montella non arriveranno sicuramente i risultati adesso, ma confido nel futuro, ma è un po' troppo criticato secondo me, anche perché appunto, come si dice Pardo, il calcio è liquido e quindi le occasioni sono state un po' controverse dalla sua parte. E poi non vorrei che, a vedere la risposta dove è arrivata del Milan, il problema fosse un po' magari Bonucci, perché dai gesti che ho visto anche in campo, anche ieri, lo riscontro ce l'aveva magari con Montolivo su certe azioni, che è qui un po' escluso dalla squadra, e mentre dagli altri magari lo sentono più come un fastidio, e quindi magari quella è la gestione... Sembra tutto un gran casino nella natura del Milan, ragazzi. Voglio dire, poi alla fine l'ascoltatore ha ragione, cioè, è chiaro che i tempi di gestazione per una squadra così nuova, con così tanti giocatori nuovi da amalgamare insieme, dal punto di vista, diciamo, di logica, il tempo c'è e ci dovrebbe essere, ci mancherebbe altro. Insomma, è chiaro che Montella si trova a dover gestire una rivoluzione vera e propria con una squadra nuova, con molti giocatori che fra l'altro sono giocatori giovani, in crescita, cioè non ci sono soltanto i Bonucci e Biglia, ci sono anche dei giocatori comunque di prospettiva, quindi è che ti chiami Milan. È chiaro, Milan, e quindi il tempo non ce l'hai, il tempo non ce l'hai. La comunicazione del Milan, abbiamo detto mille volte, è stata una comunicazione molto, anche quella molto aggressiva, ma giustamente, di un club che voleva subito bruciare le tasse. Puoi comprare i giocatori, ma il tempo no. A che ora ti vedo? A proposito del tempo, che ora ti vedo stasera? 23:10 tiki-taka. Ieri ho preso 3 da San Siro, sono tutto un po' mocio. Dai, se hai bisogno di me, ti porto a Tachipirina. Ti preoccupa. Ciao. Ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, domani. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!